America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Ieri è stata una giornata alquanto incerta in borsa. Il Dow Jones ha perso lo 0,33%, il Nasdaq lo 0,27%, il Dow resta al di sopra di quota 13.000, ma un'incertezza che deriva da dichiarazioni di Ben Bernanke, da dichiarazioni del segretario al tesoro Geithner. Si percepisce un messaggio secondo cui l'economia non è così forte come alcuni potrebbero pensare. Perché vi parlo dell'economia? Perché l'economia naturalmente giocherà un ruolo chiave nella campagna elettorale. Abbiamo visto interventi sia di Romney che di Santorum, ma sul fronte politico l'aspetto più interessante della giornata di ieri è che da un sondaggio è emerso che i repubblicani non ne possono più di questa battaglia che si trascina con Gingrich, con Paul, con Santorum, con Romney. Vogliono che almeno due se ne vadano e soprattutto vogliono che se ne vadano sia Gingrich che Paul. Su questo punto vorrei chiudere, per poi passare a un altro argomento centrale per le elezioni, con uno sviluppo sulla storia dei microfoni aperti. Ricorderete che Barack Obama è stato colto in fallo, molto imbarazzato, perché a un certo punto, parlando con il leader russo Medvedev, gli ha detto: ma sono le mie ultime elezioni, dopo le elezioni potrò essere più flessibile. Romney lo ha attaccato. In difesa di Barack Obama è intervenuto proprio Medvedev, il quale da Seul ha attaccato Mitt Romney, dicendo: questo signor Romney credo che non sappia bene dove siamo come orologio. Il suo orologio, dice, non è al 2012, ma è fermo agli anni 70, quando c'era la guerra fredda. L'altro argomento centrale di queste elezioni, oltre all'economia, è la riforma sanitaria. Riforma sanitaria di cui vi ho raccontato ieri, si sta dibattendo a Washington. La Corte Suprema sta esaminando la costituzionalità o meno del progetto di riforma del presidente Obama, firmato nel 2010 e, devo dire, non preso molto bene da una buona parte dell'opinione pubblica americana. Vi raccontavo che lunedì si è dibattuto sull'opportunità che si possa addirittura tenere un processo di questo genere, in quanto una legge del 1867 prevede che il ricorso su una tassa possa essere fatto soltanto quando la tassa è stata pagata. Il progetto di legge di Obama non entrerà in vigore fino al 2014 e dunque non si dovrebbe neanche andare avanti con questo processo. Primo punto. Ieri invece si è dibattuto della costituzionalità, quindi entriamo nel cuore del problema di questo progetto di legge, cioè se il governo federale può davvero imporre a un cittadino di acquistare un certo servizio. Terzo punto, nel caso si appurasse che in effetti quella è la situazione, cioè che il progetto di legge in quel particolare punto è anticostituzionale, se a quel punto l'intero progetto decade o soltanto quella piccola regola che impone una penale sul progetto intero. E dunque io ho con me ai microfoni di America 24, per parlare di questo un po' del sistema sanitario americano, Gino Gumirato, che è il direttore dell'AS locale di Modena, ma che è un esperto perché è stato chiamato a far parte di una squadra di 10 non americani che erano degli esperti che avrebbero dovuto esprimere il loro parere nel momento in cui si lavorava alla riforma. Dunque Gumirato, che è con me in linea, è un esperto di Obamacare. Buongiorno dottor Gumirato. Buongiorno. È una matassa incomprensibile per molti dei nostri ascoltatori, quindi direi non entriamo in troppi dettagli, ma secondo lei alla fine questa Corte Suprema cosa deciderà? Questa della riforma è un sistema di premi e di sanzioni che non hanno lo scopo come dire, di coartare il mercato o di obbligare a obbligazioni i singoli cittadini. È un sistema che ha l'obiettivo di aumentare la copertura assicurativa e quindi la copertura alle spese sanitarie per milioni di cittadini. Quindi da questo punto di vista credo che il governo federale abbia sicuramente la possibilità di regolare il mercato, di regolare il funzionamento anche degli altri 50 stati, come peraltro è già successo per altre riforme, quella della finanza in primis. Parliamo di questa riforma sanitaria che lei conosce a fondo. Come lei sa, la maggioranza dell'opinione pubblica non è molto contenta. Perché? Negli Stati Uniti chi paga l'assicurazione, sia quella pubblica che quella privata, sono di fatto le imprese. Le imprese piccole sotto i 50 dipendenti pagano la stessa assicurazione con la stessa copertura sanitaria al proprio dipendente fino al 33% in più di quanto non la paghi una grande impresa, perché la grande impresa negozia meglio. Però questo cosa significa? Significa che le imprese americane sotto i 50 dipendenti non sono in grado di concorrere a livello mondiale perché hanno costi sanitari maggiori degli altri stati mondiali e maggiori delle grandi multinazionali. Questo livello di costi sanitari che si ribalta sui costi di produzione di beni e servizi era insopportabilmente grande nella sua dinamica di crescita. Il fatto di aver fatto la riforma è stato un fatto non solo straordinariamente importante perché aumenterà la copertura, migliorerà l'equità di accesso e saranno tutti più etici e più equi, ma anche e soprattutto perché nel medio periodo si ridurrà abbastanza in maniera imponente il tasso di aumento dei costi. Quindi capisco il dibattito elettorale, capisco il dibattito sui media, ma la riforma era necessaria per la sopravvivenza del sistema economico. Restiamo su confronti, diciamo, anche assoluti. Noi ci lamentiamo molto del nostro sistema sanitario, in realtà poi mi accorgo quando gli americani vanno in Italia tornano molto contenti, pensano che i medici sono buoni, magari sono stati bene, sono andati al pronto soccorso, e se facciamo i conti il costo della nostra sanità in rapporto al PIL è di circa il 9 qualche cosa, tra il 9 e il 10%. Il costo della sanità in America è al 14, addirittura direi al 16% secondo gli ultimi dati del PIL, molto più caro. Su questo una delle polemiche è che in America si è molto litigiosi, ci sono le malpractice suit e quindi in conseguenza di questo rischio di essere portati in tribunale da un paziente che riceve milioni di dollari di danni, ecco che i medici devono a loro volta assicurarsi polizze molto costose per proteggersi dal rischio di causa e quindi aumenta e lievitano i costi. Perché l'amministrazione Obama non ha posto dei limiti agli avvocati, al malpractice o a certe rigidità nel sistema? Certo, è una componente di costo importante, ma in realtà non è solo la malpractice medica che determina l'aumento della quantità delle prestazioni. Il cittadino americano ha sempre pensato di poter comprare la prestazione sanitaria quando voleva, dove voleva, dal medico che voleva e in caso si trovasse male lo poteva pure denunciare. In tutti gli stati di origine, come dire, europea e con sistemi di welfare a copertura universale, sappiamo perfettamente da molti anni che non è il numero delle prestazioni che determina la qualità della cura. Tanto è vero che ci sono due capitoli della riforma destinati a mutare profondamente la qualità delle cure e questo viene anche a determinare minori costi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Ieri la EMI Records ha annunciato l'uscita di un nuovo disco della storica rock band di Chicago, Smashing Pumpkins. E questo è successo dopo 5 anni di pausa. Il nuovo album si intitola Oceania, uscirà a giugno. Degli Smashing Pumpkins, Cheer Up Rock. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.